Radio 24 Reportage. Lampedusa, un anno dopo, di Valentina Furlanetto. Bisogna arrivarci fisicamente a Lampedusa per capire quanto è lontana. Atterrati a Palermo ci vuole ancora un'ora di aereo per quest'isola che è proprio davanti alla costa libica. Ed è qui, una giornata calda di sole, che iniziano le commemorazioni per l'anniversario del 3 ottobre 2013, quando proprio in questo mare nero morirono 368 persone che tentavano di attraversare il Mediterraneo. Sono iniziate le commemorazioni con questi suoni, le preghiere in tutte le lingue, le religioni. Alcuni dei migranti sopravvissuti sono tornati qui per ricordare i loro cari morti, per ringraziare i lampedusani che li hanno accolti. Uno di loro è Jonas, 17 anni, eritreo. Tu hai 17 anni e vivi in Italia adesso? Sì. Dove vivi? In Manzarino, in Sicilia. Quindi sei rimasto in Sicilia? Sì, sì, io volevo rimasto in Sicilia. E sei uno dei fortunati che l'anno scorso è sopravvissuto? Sì, sì, molto fortunato, perché io, i miei amici sono morti. Molto, molto fortunato. La tua famiglia dov'è? Mia famiglia in Eritrea, abitano in Eritrea. Tu avevi fatto un viaggio dall'Eritrea passando per la Libia? Sì, sì, sì. Di Eritrea, Libia, Etiopia, Sudan, poi Libia. Poi Italia. Sono morti, i miei amici sono morti anche. Deserto? Troppo difficile, molto difficile, perché quando noi attraversato, tutti deserto, ma senza acqua, senza mangiare, così. Perché hai deciso di restare in Italia e non andare in Nord Europa? Molti tuoi amici sono andati nel Nord Europa. Perché io voglio qui, ora io imparare italiano un po' qui. Dopo la commozione è arrivato però il momento delle proteste. Un gruppo eterogeneo di persone fianco a fianco, pescatori offesi, commercianti preoccupati per gli affari e giovani arrabbiati dei centri sociali hanno manifestato contro la conferenza delle istituzioni e dei politici. Protestavano ognuno con ragioni diverse, a volte opposte. Il feticcio è l'Europa, incarnata fisicamente dal presidente europeo Martin Schulz, colpevole di chiedere all'Italia di salvare i migranti, ma di non esserci quando l'Italia ha bisogno dell'Europa. I represent the European Parliament, and the European Parliament we urge the member states of the European Union, because we have no European government. These are the governments of the 28 member states of the European Union to do more, and one decisive element is to distribute the refugees amongst all member states of the European Union and not amongst some member states. I think the people who protest, they are not representing the majority of citizens. Some fishermen. So there with amongst these people are some fishermen, but people who shout on me that I'm a Nazi are for sure not my interlocutors. You will understand it. Neither if it is a prime minister nor a man who is rallying here in front of the airport. Non mi faccio intimidire, non mi faccio dare del nazista da nessuno, dice Schulz ai nostri microfoni. Queste persone non rappresentano la maggior parte dei cittadini. Il 3 ottobre 2013 è una macchia sulla nostra coscienza di europei. Laura Boldrini, presidente della Camera, parla subito dopo. L'Italia si è impegnata a investire molto nel salvataggio di vite umane in mare, ha avviato subito l'operazione Mare Nostrum che ha messo in salvo quasi 100.000 persone, cioè sono arrivate in Italia 135.000, ma almeno 100.000 sono state salvate dalla Marina Militare, dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Questo a dire che abbiamo subito reagito con un'operazione che ha anche un costo molto impegnativo. Dopodiché il lavoro è anche stato fatto in Parlamento su altri fronti, non c'è più il reato di immigrazione clandestina. Spero di portare in aula questo provvedimento da qui a pochi giorni. Quindi si sta lavorando a questo, si sta anche lavorando a ridurre il tempo della detenzione dei migranti che arrivano irregolarmente da 18 mesi, che è il termine massimo predisposto dalla direttiva europea, a un tempo più ridotto. È passato un emendamento al Senato, grazie al senatore Manconi, di ridurre questo tempo a 3 mesi. Dunque ci sono anche altre proposte sui minori non accompagnati, ci sono proposte che vanno tutte nel segno di quell'impegno che ci siamo presi qui a Lampedusa. Ora però c'è bisogno di unire le forze, c'è bisogno che anche l'Europa si riscatti da questo, che consideri il Mediterraneo come è frontiera europea e che sia insieme a noi in un'operazione che mira a salvare vite umane. Questo l'Europa lo deve fare se vuole rispettare se stessa e i propri principi fondanti, cioè il rispetto di vite umane. Il salvataggio di vite in mare è un obbligo, la Convenzione di Ginevra è stata firmata da tutti gli Stati membri, dunque si tratta della via dell'asilo, il Mediterraneo è la via dell'asilo e l'Europa è chiamata oggi a dare dei segnali rispetto al salvataggio di vite umane. Fuori la giornata si trasforma, iniziano ad addensarsi le nuvole. C'è il giovane del centro sociale contro il centro migranti per motivi umanitari che protesta a fianco alla commerciante che non vuole il centro migranti, ma perché non gli fa fare affari. C'è la scritta Via da Lampedusa ai migranti e c'è la signora Maddalena che abbraccia l'UAM Eritrea scampata al naufragio e accolta come una figlia l'anno scorso. C'è chi fa il bagno e chi va al santuario di Porto Sicuro. Lampedusa è tutto questo. Se raccogli dal mare la rete trovi mille ragioni e anche contraddizioni. Per la pagliacciata che andrà in onda tra qualche minuto là, in cui una serie di politici sono totalmente responsabili di quello che succede, vengono a piangere sulle morti che hanno causato, che causano tutti i giorni, non mettendo rimedio al fatto che le persone partano e arrivano in condizioni pericolosissime e poi di conseguenza muoiono. Lei, signora, è qui per protestare contro questa conferenza, contro la riapertura del centro, se non sbaglio? Sì. Siamo contro questa amministrazione perché non può fare accordi con Soros, forse l'Italia, il mondo non sa chi è Soros. Sono anni che discutiamo e non abbiamo visto nulla. Mio nipote va ancora praticamente a scuola nel turno pomeridiano perché non abbiamo neanche una scuola. Ci fanno un centro in 2 mesi e una scuola di 10 anni che è pericolante e i bambini non hanno una scuola. Quindi secondo me prima bisogna pensare a noi, poi bisogna pensare a loro. Questa protesta perché loro vengono qua soltanto quando ci sono giorni come questo di tragedia e per tutto il resto dell'anno si interessano per niente delle nostre vite, sia di quelle dei migranti che muoiono, sia delle persone dell'isola che soffrono tutti i giorni dovendo affrontare. Chi rappresentate? Ognuno rappresenta se stesso. E poi c'è Adal, eritreo, 32 anni, suo fratello di 23 è fra le vittime. Adal non capisce la protesta, lui stesso è arrivato via mare qualche anno fa. Ha subito il carcere e la tortura in Eritrea. Ora vive in Svezia, dove ha ottenuto il permesso di soggiorno. You live now in another country, not in Italy. I live in Sweden now. Just now. You tried to come in Italy, is that correct? Yeah, the same way. What can you say to the people who is going to protest now? I don't know what their aim is. I don't know about the protest. But the Lampedusa people helped you, no? Yeah, I am very, very grateful. They are very kind people, Lampedusa people. I can't remember what they did. I hope that they help us to make the DNA test and identify our brothers. Chiedo soltanto, dice Adal, che mio fratello venga identificato. Ringrazio i lampedusani per l'accoglienza che ci hanno dato. Non capisco la protesta. Piano piano le commemorazioni e anche le proteste finiscono, ognuno torna al suo destino. Schulz a quello europeo, Adal al suo futuro in Svezia, dove lo aspetta una fidanzata, per la quale ha messo in valigia una conchiglia comprata a Lampedusa. I lampedusani restano ai loro problemi, che si chiamano Mare Nostrum, centro per migranti, ma anche un ospedale dove partorire che non c'è e bisogna, per avere un figlio, prendere l'aereo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.